Totem, tubi, bai. Oggetti quotidiani nell'ultimo bai. Mostra a cura di Roberta Cerini Bai e Alberto Rolla. Crema, 5 dicembre 2014, 7 gennaio 2015. Presso il Museo Civico di Crema e del Cremasco, piazzetta Winifred Terni De Gregori, 5. Enrico Bai, totem, stregoni e re di Francia. Procedendo, lo spazio e le cose attorno andavano rarefacendosi, come se al pieno, alla ridondanza e alla densità caotica subentrasse una progressiva riduzione quantitativa, ormai limitata a pochi segni, a poche immagini, dall'apparenza sempre più allungata e orizzontale. Alla fine, l'ultima figura rimasta divenne così sottile da sembrare una linea, un orizzonte di demarcazione tra tempo presente e tempo passato. Lungo questa linea, i concetti si alternavano tra il tempo dell'illusione di Einstein e il tempo del degrado o dell'entropia. Tanto più si procedeva, tanto più l'infinito sembrava mutarsi in nuovi possibili accumuli, i quali, dal segno negativo, passavano al positivo, generativo, creativo. Il periodare delle sensazioni parve obbedire ai movimenti di un pendolo. Il pendolo, ridotto l'attrito a valori poco discosti da zero, potrebbe oscillare all'infinito. Invece tende a smorzarsi, a fermarsi, quasi che un attrattore lo richiami a una stabilità asintotica. Gli attrattori sono strane entità che possono, permeando la corteccia cerebrale, polarizzare la mente e le sue proiezioni, per esempio direzionandola verso un oggetto di desiderio. Possono, gli attrattori, distribuirsi in modo non uniforme, non essere corrispondenti a numeri interi e comportarsi in modo stocastico. Questo disordine fa assumere loro aspetti ludico-combinatori. Alla roulette posso giocarci mille volte, eppure la situazione è sempre nuova ogni volta, se si eccettua per la permanenza di una piccola legge, quella di Mandelbrot sull'invarianza di scala. Ma che la scala sia sempre la stessa oppure differente, me ne sbatto il culo. Agli inizi del 1997 avevo cessato di fare il verso le maschere tribali, in cui avrebbe dovuto riflettersi, a mio dire, quell'attrazione rivolta al recupero del primitivo. Impulso questo irrazionale che colpisce le civiltà tecnologiche e imputizzate. Gli addetti all'intelligenza artificiale di codeste civiltà passano la più parte del tempo sui tasti di un ordinatore, inchiodati su internet. Contemporaneamente sognano nomadismi erratici, cavalcate on the road, rumori laceranti o martellanti nella gelida notte solcata da cadenti meteoriti. Pulsioni di violenza fredda e di stridori dinamico-futuristi. L'orgasmo dell'attrazione a evadere permane inesploso negli schiacciatastisti e nei cellotelefonisti satellitari. Il nomadismo cyberpunk non risulta completamente appagante. È il viaggio reale nel vero mondo primitivo mediterraneo-clubizzato e optional personalizzato. È l'evasione verso quel deserto che subentra alla rarefazione delle cose, dei gesti, delle ripetizioni memoriali iterative dell'essere e del malessere. Arrivammo all'oasi degli alberi pugnalati. Trattavasi di tre tronchi, ciascuno trafitto sei volte in funzione apotropaica ed evocativa. In pratica si era voluto far uscire la linfa appiccicaticcia e resinosa, linfa alla quale avrebbe potuto attingere il gran sacerdote numeratore al fine di aromatizzare piedi e sottascelle. Da questa oasi possiamo osservare le stesse impressioni d'Africa che, raccolte da dottor Livingstone, costituirono una sorta di riserva di supposizioni dipinte per la narrativa del signor Raymond Russell. Alcuni quadri discesero lentamente, proiettando attorno le loro calde luci policrome e rimanendo appesi alle pareti a circa 63 centimetri dal pavimento, senza perdere nulla del loro splendore. Analizzammo una di queste opere, numero di archivio 2837. Ci trovavamo al centro di un vasto cratere naturale, ove, superata la breve striscia di deserto, al di là dell'oasi delle tre piante trafitte tra dolci rilievi palmeti, il paesaggio cilindriforme della falda stratificata detta Marconi riflettevasi nelle paludose acque di tremuli laghetti, acque tagliate dai fendenti del sole. L'acqua era cosparsa di rettili affioranti, tra iridescenti bolle catramose e ranocchi saltellanti. Potenti ganasce dentate di coccodrilli e ippopotami dai languidi occhi si opponevano agli sguardi feroci di fulvi leoni attorniati da pestiferi sciacalli. Tra tante fiere e idrosauri faceva la sua apparizione anche Sua Magnificenza Alligator Lutembi, recentemente elevato alla più alta carica del Collegio Patafisico di Francia. Un altro quadro, numero di archivio 2818, raffigurava una sorta di cerimonia all'aperto, con il cielo costellato di lune e asteroidi oscuri. Trattavasi di un rito nuziale alla presenza del capo tribù, ritratto con doppio profilo inquisitorio e con un'aggressiva punta di lancia in testa. In basso a sinistra assistevano i dignitari addetti ai riti alchemico-propiziatori, sovrastati, questi dignitari, da un vecchio saggio bitriangoluto. In basso a destra figuravano gli sposi, sormontati da una coppia di testimoni. La scena numero 2838 era caratterizzata da un folto gruppo di figure mascherate e totemiche, talvolta incoronate, che si trovavano al centro di una folta vegetazione di latifoglie palmate. Sopra le loro teste volavano, quasi danzando tra stelle e lune nere, due piccioni bianchicci dai riflessi argentei. L'ultimo quadro, infine, numero di archivio 2839, rappresentava il grande totem. Trattavasi di una grande forma a fusto verticale, munita di elementi figurali e decorativi, spesso simmetrici a intaglio e a colore. Talvolta il totem materializza una certa relazione tra un uomo e un oggetto della natura, tra un gruppo umano e una specie naturale. Talvolta possono essere totem anche le piante, più di rado corpi celesti, qui presenti come stelle nere o altri oggetti naturali. Secondo Ankerman, spesso l'essenza del totemismo risiede in una stretta relazione individuale e sociale tra l'uomo e la bestia. Non ci occuperemo di questo aspetto animalesco dell'allegoria animistica riscontrabile soprattutto tra gli indiani dell'America settentrionale centrale, ove prende il nome di manituismo o di nagualismo. Per molto tempo si è discusso se il totemismo fosse da identificare con la religione, se non addirittura con la nascita della religione. Una parte di studiosi vi ravvise infatti sin dagli inizi del tempo storico l'origine di ogni religione. Altri al contrario contestano ogni possibilità di fede perché il totem non è una divinità e non è oggetto di culto. L'aspetto religioso sarebbe quindi da ravvisarsi, secondo Katie Preuss, nella finalità di proiezione della vita con mezzi soprannaturali, finalità protettiva assegnata frequentemente all'oggetto totemico. Messa da parte l'idea di un pantotemismo mistico, si è fatta strada l'importanza sociale del totem, in base al quale si può anche costruire un ramificato sistema di classi e di raggruppamenti sociali. Questi raggruppamenti si formano a seconda della maggiore o minore distanza dal totem, quindi in base a caratteristiche territoriali e abitative. Anche gli alberi, come le rocce e le pietre, possono assumere un carattere di trascendenza. Il primitivo che entra in una foresta si sente fra i suoi simili, è egli stesso albero, avverte una comune origine. I Maori vedevano negli alberi maestosi delle persone appartenenti al ramo maggiore della grande famiglia, quindi ci scorgevano una sorta di famiglia reale. Fedeli dello animatismo, i Maori ascoltavano le voci provenienti dal fruscio delle fronde e intrattenevano con gli alberi persino delle conversazioni. Anche prescindendo dalle attuali istanze ecologiche, abbattere un albero ha rappresentato spesso un'impresa molto seria. Ancor più seria se si considera che, anche da morti disseccati, certi alberi possono osservare lo spirito che li animava in vita. Quindi i morti vivono e possono, attraverso la rappresentazione totemica, offrire il senso del tempo creativo e di quello storico. Abbandonata la profondità del cono vulcanico del Ngorongoro, i Masai, usciti dalle capanne, ci accompagnarono a un livello superiore, ove fummo accolti dal gran sacerdote numerario, che a tergo si trasformava nel triplice bozzoluto. Poco più avanti scorgemmo un ubu ligneo, munito di un interruttore a galleggiamento e con trapano manuale in testa per la festa dello scervellamento. Poco più in là s'era formata una piccola folla di totem, talvolta di ridotte dimensioni. Tra questi scorgemmo Goffredo Rudel, cui spalle stava Melisenda contessa di Tripoli, e poi un Savonarola sponsorizzato da Michelin, un totem piccolotto col martello in testa, uno allungato con l'elmetto da pompiere sulle 23, e persino un Luigi XV con alle spalle la sua favorita, la famosa concubina Pompadura. Sul fondo stava il grande stregone cyberpunk, fiancheggiato da alberi totem non trafitti, il quale evocava zone di terrorismo poetico. Lasciammo che questo sciamano si sbizzarrisse nelle sue pratiche sapienziali e ci avviammo sulla via del ritorno in compagnia questa volta del cui pigmeo Dogon. Il re Sole, con alle spalle la marchesa di Montespano, stava lì a indicarci che si poteva gratuitamente visitare anche la cripta del re di Francia. Scese le scale, ci imbattemmo in Lancillotto e in re Artù, che montavano la guardia. Superati questi vigilantes, scorgemmo due totem che, cosa straordinaria a vedersi, erano passati dall'abituale posizione eretta a quella orizzontale. Trattavasi delle spoglie di Enrico II e di Caterina de' Medici, mirabili monumenti funerari, detti dei francesi gisants. Questi defunti coronati sembravano vivi, con l'anima dentro, proprio perché il totem arboreo, morendo, vive. Di lato un prete officiante, sull'altro lato una religiosa, sul fondo, al centro, il sacro Graal, inginocchiarsi e poi uscire sulla destra. In Bai, 1997, totem. Marconi Menhir, Milano La Spezia, 1997.